Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. I lavori di domani. Diana Marino. Search Engine Optimization è l'insieme delle attività tecnologiche e linguistiche che hanno lo scopo di aumentare la quantità e la qualità del traffico verso un sito web, un portale o un contenuto digitale come ad esempio un video o un podcast. Per questo un professionista della SEO non solo padroneggia i linguaggi informatici, ma anche la lingua del pubblico di riferimento, cioè i potenziali clienti, e ha una visione a 360 gradi dei canali di comunicazione digitale. Il traffico di qualità generato dai motori di ricerca è, statistiche alla mano, quello che genera un numero più elevato di contatti profilati e vendite. Si tratta di uno strumento indispensabile per qualsiasi business online, perché non basta avere un sito web, ma in un mercato sempre più competitivo bisogna saper intercettare i bisogni degli utenti, dalle PMI ai professionisti. Ci racconta che cosa fa e qual è il ruolo di questo lavoro di oggi e di domani Laura Venturini, esperta in Search Engine Optimization. Il lavoro consiste fondamentalmente nel assecondare quelle che sono le richieste dei motori di ricerca, Google in particolare, perché in Italia la maggior parte delle ricerche, più del 98%, vengono fatte su Google. Cosa fa un SEO? Un SEO si occupa di gestire tecnologicamente una piattaforma, un sito web o un portale in modo tale che abbia le caratteristiche che Google si aspetta per poterlo inserire all'interno del suo indice. E poi si occupa anche di tutta un'altra serie di attività che riguardano i contenuti del sito e le strategie, le migliori strategie per acquisire il traffico delle persone che effettuano delle ricerche appunto sul motore di ricerca, in modo tale che trovino quello che insomma stanno aspettando. Chi cerca trova, e questo è il desiderio di tutti quanti, ed è comunque un facilitatore, la SEO o il SEO, che porta a cercare, come dire, una possibilità in più, e anzi molte possibilità, ma anche a trovare il contenuto e quello che è necessario e che in quel momento l'utente internet cerca. Ecco, anche le parole sono importanti. Search Engine Optimization vuol dire che l'ottimizzazione, insomma, c'è una riduzione di tempi e costi. Engine è un'energia, insomma, quella necessaria per il sito, and search è la ricerca. Quindi noi qui cerchiamo anche di capire i termini in inglese, ed è anche una consulenza quello che fate voi. Parliamo della tua giornata tipo. Che cosa fai? Qual è il tuo lavoro? Nel senso che hai contatti con aziende, adesso anche in emergenza sanitaria è necessario, come dire, portare tutto su internet, anzi meglio, perché si è trasferito tutto online. Quindi qual è appunto il tuo schema di lavoro quotidiano? Intanto io ho iniziato a fare questo lavoro molto molto prima che fosse una professione di moda, nel senso che ho iniziato nei primi anni del 2000, mentre studiavo filologia alla Sapienza, quindi veramente un contesto molto particolare. Negli anni chiaramente ho lavorato in tantissime agenzie, finché nel 2014, dopo diversi anni di libera professione, ho deciso di aprire una mia agenzia SEO che si chiama Quindo, che fondamentalmente ha due caratteristiche. La prima è che è nata in smart working nel 2014, quindi quando è arrivato il famoso Covid con tutte le conseguenze che ha portato, in realtà noi ci ha trovate abbastanza solide, senza grandi preoccupazioni, perché il mio staff, diciamo, è sparso in tutta Italia, da Milano a Reggio Calabria, e quindi siamo riusciti a gestire la cosa in modo, diciamo, abbastanza agile. La seconda cosa è che il mio staff è principalmente fatto di donne, tant'è che noi abbiamo la quota azzurra per non discriminare nessuno, cosa alla quale teniamo particolarmente. Detto questo, la mia giornata lavorativa praticamente è gestita in questo modo. Io una volta che ho coordinato il mio staff, mi occupo principalmente di due attività: strategia su consulenze SEO molto complesse, quindi su clienti che possono essere multinazionali oppure e-commerce molto complessi, e poi mi occupo, diciamo, dell'acquisizione clienti. La formazione di questo lavoro è importante, hai detto che è nuovo, quindi la tua formazione qual è stata? Anche oggi è molto semplice formarsi, nel senso che Google direttamente offre gratuitamente, peraltro, tutte le informazioni necessarie per capire il funzionamento dei motori di ricerca. Basta cercare appunto gli strumenti per i webmaster di Google, che peraltro sono tradotti in tutte le lingue, comprese l'italiano, e oltre a questo è possibile sempre attraverso Google studiare l'altra parte molto importante per quanto riguarda la SEO, ma il digitale in generale, che è Google Analytics, che è lo strumento gratuito di Google che permette di analizzare il dato, quindi anche il flusso dell'utente che arriva al nostro sito web, e quindi siamo in grado di in qualche modo qualificarlo, sapere da dove arriva, se arriva dall'attività SEO, dai social network o da altri tipi di attività, e capire che valore abbiamo generato con la nostra attività. Qual è la forchetta di guadagno a seconda della seniority? È chiaro che quando si inizia il guadagno è chiaramente commisurato, molto cambia se si lavora in agenzia o si lavora da libero professionista. Come libero professionista si può arrivare anche a diverse decine di migliaia di euro al mese, e chiaramente per diventare scalabili poi bisogna lavorare in agenzia o avere un'agenzia, ma diciamo che la forbice di guadagno può essere potenzialmente molto molto ampia, anche perché i progetti SEO mediamente partono, per dare un'idea ovviamente molto spannometrica, da 20.000 euro l'anno e possono arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro l'anno. Dipende chiaramente da un unico fattore, il settore di riferimento. La tecnologia comunque abilita tutte le persone, uomini e donne, a partire insomma dallo stesso livello, con le stesse condizioni? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non c'è differenza di genere, età, nessun tipo, non c'è nessuna barriera. La cosa bellissima del digitale è questa, è che io non ho nessun tipo di barriera, né fisica né di altra natura, per poter essere competitivo sul mercato, per provarci. Tant'è che appunto noi ne siamo l'esempio palese, siamo una società in un settore lavorativo pensato principalmente al maschile, in cui però siamo tutte donne, peraltro siamo insomma voglio dire, io sono il primo consulente SEO in Italia su centinaia di migliaia di professionisti, e sono una donna, e nella prima pagina di Google ci sono altre donne. Io sono estremamente felice di questo, perché non assolutamente siamo la dimostrazione che a parità di competenze insomma abbiamo una marcia in più. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.